A dirlo oggi può sembrare incredibile, ma tanti anni fa, il 23 maggio del 1972, capitò che ingenti forze dei carabinieri perquisissero qui a Milano la sede del Corriere della Sera in via Solferino. Agivano, se ben ricordo, in base al mandato di un giudice che lamentava la classica violazione del segreto istruttorio, ma tutti sapevano che ciò a cui miravano soprattutto le forze dell'ordine era qualcosa che provasse l'esistenza di un rapporto, diciamo così, di protezione tra la più nota esponente della famiglia che allora possedeva il Corriere, che non era, sia detto per i giovani e smemorati, la famiglia Agnelli, a cui certo un simile trattamento non sarebbe stato inflitto, e alcuni noti eversivi, primo tra i quali il celebre Mario Capanna, terrore all'epoca dei milanesi da bene, e non trovavano niente, ma tant'è. Storie vecchie, direte voi, sì, infatti, e non mi sarei certo sognato di ricordarle se non mi fosse venuto in mente il commento che l'episodio dedicò il giorno dopo Lotta Continua, che allora era un quotidiano di recente fondazione, dispettoso e irrispettoso, che in nulla lasciava presagire il malinconico perbenismo di guerra verso cui sarebbero evoluti con gli anni i padri fondatori dell'omonimo gruppo. Un qualche redattore di Lotta Continua, dunque, decise di dare la notizia della perquisizione al Corriere così come l'avrebbe data al Corriere stesso. Scrisse dunque, devo citare a memoria ma credo di essere abbastanza preciso, scrisse che i bravi militi avevano scoperto al primo piano dell'edificio di via Solferino dei banconi tipografici su cui era impaginato un vero e proprio giornale, mentre i locali degli altri piani erano adibiti ad uffici. Sulle scrivanie di quegli uffici, osservò, erano rinvenibili numerosi cilindretti di graffiti abilmente celati dentro certi bastoncini di legno. Aggiunse la preziosa informazione per cui negli annessi magazzini si trovavano ingenti quantità di carta, facendo notare a margine che nelle città italiane nei mesi precedenti erano esplose appunto parecchie bombe carta, e concluse assicurando, su accurata testimonianza dei vicini, che in quei locali c'era un continuo andare e venire di gente anche a notte fonda. All'epoca mi parve un commento spiritosissimo, un modo perfetto di demistificare la tecnica giornalistica di deformare la verità senza dire vere e proprie bugie. Non avevo pensato, nella mia ingenuità, che in Italia è sempre meglio non fare troppo gli spiritosi, perché c'è sempre il rischio che qualcuno ti prenda sul serio, e in effetti quella tecnica informativa sarebbe stata impiegata nei decenni successivi con assoluta serietà, senza alcuna intenzione di fare dello spirito o della parodia. La si usa ancora adesso perché quel vecchio episodio mi è tornato alla mente 2 o 3 giorni fa, quando ho appreso da un telegiornale della sera, doveva essere il TG2 di martedì scorso, qualcosa del genere, che la polizia in un covo anarchico bolognese aveva trovato liquidi infiammabili e materiale interessante. Una formulazione in cui, prescindendo dall'opportunità di definire un covo quello che era, come si sarebbe appreso il giorno dopo, la sede di un circolo culturale regolarmente concessa in affitto dal comune di Bologna, che infatti subito dopo ne avrebbe stromesso gli inquilini, è una formulazione in cui non si può non notare il contrasto tra quanto è fatto supporre e quanto viene effettivamente riferito. In effetti è difficile che nella casa di chiunque, me e voi compresi, non si trovino a cercarvi liquidi infiammabili e materiale interessante. A casa mia non mancano né l'alcol denaturato né la trevina, e di libri interessanti, l'assicuro, ce ne sono parecchi. Qualcuno ha persino a che fare con la storia e il patrimonio teorico dell'anarchismo. Ma non scherziamo. L'elemento davvero preoccupante in tutto ciò era e resta il fatto che quella non notizia fosse inserita nel contesto giornalistico riguardante le indagini sull'omicidio del professor D'Antona. La sede bolognese, a quanto era dato di capire, non era stata perquisita nel corso di qualche inchiesta sulla specifica attività dei suoi occupanti, ma la ricerca di collegamenti dei medesimi con le tragicamente rinate Brigate Rosse. E se di collegamenti evidentemente non ne aveva trovati nessuno, l'allusione al materiale interessante, che doveva essere una formula di provenienza ufficiale perché poi l'hanno ripresa tutti, e serviva con altrettanta evidenza a far supporre il contrario. Devo dirvi una cosa. A essere sincero, io di quell'orribile episodio avrei preferito non parlarvi. Non perché non ritenga che quello del terrorismo sia un problema grave sul cui significato è necessario discutere, soprattutto in questi giorni, quando il terrorismo sembra ripresentarsi in un paese, in una società coinvolta in quella sorta di terrorismo internazionale che in sostanza è la guerra. Il fatto è che mi sembra che non ci sia in giro molta voglia di discuterne. Pensate alla banalità dei commenti che si sono sentiti, o alla meschinità di quelle forze politiche che non hanno rinunciato all'oscura tentazione di servirsi della ricomparsa delle BR per scaricare montagne d'accuse pretestuose sui concorrenti più prossimi. Ma forse, forse su quelle banalità, su quelle tentazioni è proprio il caso di non transigere. Rappresentano un atteggiamento che fa il paio con la volontà sempre riemergente di approfittare dell'emergenza terrorismo per regolare i conti con le forme più fastidiose di dissenso. E guardate che dicendo forme più fastidiose di dissenso non mi riferisco necessariamente agli anarchici. Gli anarchici in casi come questi sono soltanto un bersaglio tradizionale e la reazione di chi di fronte a emergenze del genere ricorre al confortante cliché della versione anarchica è praticamente un riflesso condizionato come la salivazione dei cani di Pavlov. E è vero che nella storia dell'anarchismo comunque la si giudichi c'è una lunga tradizione se non di terrorismo di gesti esemplari, chiamiamoli pure omicidi politici, ma oramai è una tradizione lontana che nessuno si sognerebbe di fare rivivere, è roba in sostanza da libri di storia. E se l'ipotesi di un gesto esemplare e poi l'ipotesi di un gesto esemplare rivendicato in nome di una dottrina di un'organizzazione che non è la propria è davvero un po' troppo azzardata persino per i nostri inquirenti, ma diciamo che la perquisizione delle sedi anarchiche ha un valore soprattutto simbolico e suona un po' come un grido di guerra, come il gesto di chi si rimbocca le maniche e si sputa sulle mani, poi si capisce verrà il resto, e il resto in effetti comincia già a venire. Il sindaco Albertini si è affrettato a scoprire una cellula eversiva tra quei lavori comunali con cui è da sempre in lotta perenne. La volontà di trascinare sotto accusa i centri sociali appare in certi esponenti della burocrazia politico-poliziesca incontenibile. E se l'unico che ha avuto il coraggio di stabilire esplicitamente un collegamento tra azioni terroriste e movimento contro la guerra, movimento che rappresenta oggi come oggi una delle poche forme di dissenso visibile, se l'unico che vi ha trovato un collegamento è stato il generale Clark, il suo appello non è caduto in vano. Tre giorni fa, nel quadro appunto delle indagini sul terrorismo, i carabinieri di Legnago, in provincia di Verona, hanno assunto informazioni, come si dice, su chi avesse aderito allo sciopero dei Cobs a scuola contro la guerra. E visto che la guerra naturalmente continua, sarà il caso di prestare episodietti del genere un'attenzione maggiore di quella che gli è stata riservata finora. Altrimenti c'è il rischio che la prossima volta che qualcuno deciderà di perquisire la sede di un quotidiano o di un altro organo di informazione non si riesca neanche a trovare uno straccio di sede su cui scherzarci sopra.